e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Voglio andare a vivere in campagna, ah, ah. Oggi è la giornata mondiale dell'alimentazione indetta dalla FAO, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura, ed è proprio l'agricoltura al centro dell'edizione 2014, nello specifico l'agricoltura familiare, un tema che è assolutamente alla cuore e denari per tanti motivi, intanto perché oggi quantomeno ci permette di distaccarci un po' da quello che accade sui mercati finanziari, di nuovo molto incerti, perché l'agricoltura è una delle colonne importanti della nostra economia, perché sui prezzi di frutta e verdura si costruiscono le scelte di spesa di tutte le nostre famiglie, perché la crisi ha acceso un riflettore speciale sui consumi e sulle modalità con cui le famiglie hanno riorganizzato la loro alimentazione, anche a volte a scapito della qualità. Di cura dell'alimentazione invece noi ne parliamo spesso, e sul mangiar bene c'è sempre una maggiore sensibilità. Noi vogliamo rendere questa sensibilità compatibile con le esigenze del portafoglio, e poi c'è il tema dello spreco che ormai è davvero sulla bocca di tutti. Facciamo i conti con uno scenario economico che vede da una parte la terra stanca, sfruttata nel modo sbagliato, le produzioni che si riversano sul mercato in eccesso, e questo provoca il crollo dei prezzi, le grandi difficoltà degli agricoltori e spesso acquisti poco ponderati. Sarà capitato a tutti di buttare qualcosa. O forse non così tanto. C'è davvero spreco nelle nostre case? Oggi vogliamo proprio lanciarvi questa piccola provocazione, provate a rispondere sinceramente. Cosa si spreca, se si spreca e in che misura? 800 24 00 24 è forse un tema che i media pongono nella maniera sbagliata, e non è lo spreco che si genera nelle nostre case a provocare poi quegli squilibri economici ed anche etici dei quali parliamo tanto. Forse i riflettori vanno puntati in un'altra direzione. Una domanda al nostro numero verde ve la facciamo anche sul Made in Italy, perché oggi vogliamo anche parlare dell'importanza di consumare prodotti italiani e che vengono trattati con la cultura del cibo italiano, con la cultura italiana del cibo. Come sapete c'è il grande fenomeno dell'imitazione diffusa del Made in Italy agroalimentare, che sta confondendo moltissimo i consumatori, che anche nell'esigenza di risparmiare oggi forse non prestano più la dovuta attenzione a questi aspetti. E allora, numero verde anche per discutere di questo, 800 24 00 24. Voi guardate la provenienza dei prodotti che acquistate, privilegiate quelli italiani. Quando andate all'estero, non per viaggiare ma anche per vivere e lavorare, inseguite la pasta alla matriciana o la vera pizza margherita, vi siete trovati di fronte ad un finto parmigiano, ad una sedicente pasta asciutta reduce da ore di bollitura. Oggi vogliamo anche divertirci un po' con gli aneddoti sul cibo italiano che vi è capitato di mangiare in giro per il mondo. Oltre al numero verde ci potete anche scrivere al 349-238-6666 su Facebook e su Twitter. Dai, usciamo a fare la spesa. Manda aranci, mele, frutti esotici. Scoccia al malto, vini ed analcolici. Sai, non spreco niente, ci racconta subito un ascoltatore. Zero, solo le ossa della carne e la punta delle zucchine. Pensi che probabilmente c'è qualcuno che realizza qualche buona ricetta anche con la punta delle zucchine. Ma noi entriamo nel vivo della giornata di oggi. La consapevolezza sull'importanza dell'alimentazione passa dalle nostre scelte di consumo, dalla nostra spesa. Intanto diamo il buongiorno ad un amico di Cuore e Denari, Lorenzo Bazzana, responsabile economico della Coldiretti. Benvenuto. Grazie di essere ritornato con noi. Tra le varie indagini che per l'occasione di oggi sono state fatte, noi invece ne abbiamo scelta una condotta da Ipsos per ActionAid, che tra l'altro è stata realizzata anche in vista di Expo 2015, lo sapete, la grande manifestazione universale che avrà proprio come tema centrale quello dell'alimentazione. Secondo questa indagine, gli italiani sono sempre più consapevoli dell'importanza di non sprecare cibo e di scegliere un'alimentazione attenta al portafoglio, ma anche alla salute e all'ambiente. Buongiorno a Marco De Ponte, segretario generale di ActionAid Italia, benvenuto. Buongiorno a voi. Sappiamo che la crisi ha avuto un impatto diretto sulle abitudini di consumo e le scelte alimentari degli italiani. De Ponte, noi ne parliamo davvero spessissimo qui nel nostro contenitore. E sappiamo anche che in occasione di questa giornata mondiale dell'alimentazione sono state diffuse moltissime indagini. Ci dica un po' la vostra, in che cosa si differenzia, quali sono le evidenze nuove e forti che avete riscontrato in questo monitoraggio. So che ce n'è una molto netta sugli alimenti o gli alimenti che finiscono in pattumiera. La nostra indagine vuole contribuire a farci un quadro generale di come la pensano gli italiani, che non è necessariamente poi effettivamente come gli italiani si comportano, però dichiarano molto di più di fare più attenzione a quello che finisce in pattumiera o quello che invece finisce per essere effettivamente consumato. Un dato che è molto importante di questa ricerca è che a fronte di una maggiore consapevolezza, ma anche del riconoscimento da parte della metà degli italiani, quindi c'è anche molto da fare, che comunque si compra in eccesso, l'altra metà dice di essere più attento perché prova anche, diciamo, un certo disagio, un senso di colpa, chiamiamolo come vogliamo, rispetto ad una presa di coscienza nuova, questa sì, cioè la fame è sempre stata considerata una cosa lontana, in realtà adesso si sa che un italiano su 8 ha difficoltà ad avere un'alimentazione adeguata, che vuol dire non riesce a mangiare proteine una volta ogni 2 giorni. E questo fa in modo che gli altri 7/8 della popolazione si mettano, diciamo, una mano sulla coscienza in più, perché la cosa è sotto casa, è sotto gli occhi di tutti, diciamo. E quindi proprio ho visto che rispetto per esempio ad un paio di anni fa, oltre la metà degli italiani, quindi il 54%, ha visto una netta diminuzione degli alimenti che finiscono in pattumiera senza essere consumati. Dice di sprecare meno, dice di essere più attento per le ragioni più variate, dice tra l'altro di aver cambiato i propri comportamenti, le proprie abitudini, specificando cosa, per esempio dice di far più attenzione alla stagionalità della frutta e verdura che mette in tavola, alle modalità di acquisto, cioè più sfuso, più appeso, eccetera, quindi evitando tutto il packaging che è un orpello, un costo, diciamo, spesso a volte inutile. Dice di scegliere prodotti dalla filiera corta, di scegliere se possibile prodotti che vengono dall'agricoltore, diciamo, vicino casa, parole che suonano come oro all'orecchio di Lorenzo Bazzani, immagino, perché le organizzazioni del mondo agricolo sono molto interessate al tema dello spreco e tra l'altro proprio i prodotti dell'ortofrutta finiscono spesso al macero per produzione in eccesso. Bazzana, questo è un tema che con Nicoletta Carbone abbiamo affrontato quest'estate, quando c'era il fenomeno per esempio del buttare via le pesche nettarine per eccesso di produzione. Ci aveva veramente così tanto colpito che poi ci siamo ritornate ripetutamente sull'argomento. A che punto è questo dibattito, peraltro? Ci fa un po' un punto della situazione su quali prodotti in questo momento, a causa anche di scelte di carattere politico e legislativo, devono essere ricorrentemente buttati? Quali prodotti, Bazzana? Ma innanzitutto noi ovviamente cerchiamo di non buttare niente, nel senso su questo, che ecco. Questa è l'estrema ratio e comunque in ogni caso non è che venga buttato, purtroppo alle volte capita di non raccogliere e quindi di dover lasciare in campagna, perché magari i prezzi sono talmente bassi che non copriremo neanche il costo della raccolta medesima. È chiaro che i prodotti che in questo momento sono un po' nell'occhio del ciclone o comunque hanno un po' difficoltà sono sicuramente quelli che sono interessati dall'embargo russo e quindi quelli che soffrono per la venuta a mancare di questo sbocco di mercato particolarmente interessante. Noi abbiamo valutato come Coldiretti circa 200 milioni di euro quello che è il danno diretto di questa chiusura, ma poi c'è anche un danno indiretto generato poi dall'effetto sostituzione di prodotti che magari non venivano esportati direttamente verso il mercato russo, ma che soffrono per l'eccesso di offerta generato magari da prodotti di altri paesi che poi arrivano sul nostro mercato. È chiaro che lo scenario non è quello di buttare via il prodotto, di distruggere il prodotto, nel senso che la stessa Unione Europea ha messo in pista degli strumenti che ci consentono, tramite attraverso la distribuzione gratuita ad esempio, di cercare di far sì che questi prodotti, invece che non essere raccolti o essere buttati via, possano essere utilizzati per dare del prodotto a quelle associazioni, a quelle diciamo strutture che sono deputate a, a portare sollievo, supporto a, a persone indigenti, a persone con disagi sociali oppure con handicap di vario tipo, in modo tale che questo prodotto possa comunque essere consumato, certo. Consumato e non distrutto. Senta Bazzana, avete organizzato come Coldiretti qualcosa di speciale per questa giornata mondiale dell'alimentazione? Ma noi innanzitutto questa giornata mondiale dell'alimentazione la celebriamo oggi, ma la vediamo molto in funzione di quello che avverrà poi da domani per due giorni a Cernobbio, ovvero sia un forum internazionale dell'agricoltura e dell'alimentazione in cui sicuramente il tema dello spreco, il tema della crisi, il tema di quelle che possono essere le modalità per un diverso modo per creare una filiera agroalimentare più virtuosa saranno sicuramente al centro dei dibattiti, per cui per noi è sicuramente un'apertura importante per alcune riflessioni che poi verranno sviluppate in maniera approfondita domani e dopodomani. È chiaro che oggi noi siamo usciti con un dato che è un dato molto pesante, abbiamo riportato appunto nel comunicato il fatto che viene sprecato un terzo del cibo che viene prodotto. Cioè qui il tema è non soltanto riusciremo a produrre quello che potrà sfamare il pianeta, ma è necessario produrre di più se un terzo di quello che produciamo per un motivo o per l'altro, a un punto della filiera o in un altro punto della filiera, viene poi sprecato, certo. Buttato, non finalizzato. Benissimo. E no. Quindi questo significa anche poi poter risparmiare terra, terreno, pianeta, risorse, eccetera, eccetera. Allora, la ringrazio per averci dato questo spunto, questa suggestione, perché poi approfondiremo magari con lei il tema del livello in cui questo spreco si realizza, per capire anche se come consumatori possiamo fare qualcosa affinché questo possa essere evitato. Intanto, prima della prossima domanda, Marco De Ponte, siccome molti ascoltatori molto sensibili all'argomento stanno già scalpitando per intervenire, io direi di coinvolgerli subito. Allora, 800 24 00 24, per primo si è candidato Mario da Napoli, che vuole darci qualche suggerimento per migliorare anche il nostro stile di vita e consumare meno. Mario, benvenuto, buongiorno. Buongiorno, complimenti innanzitutto per la trasmissione splendida che seguo sempre. Grazie. Ho deciso di intervenire oggi perché è un argomento sul quale sono particolarmente sensibile. Perché, Mario? Da cosa le arriva questa sensibilità? Molto semplicemente è una questione prettamente etica. Il cibo non si spreca in assoluto, per quanto mi riguarda. Questa è l'idea che ho sempre, il rapporto che ho avuto sempre col cibo è proprio questo. Io sono un buon gustaio, mangio, mi piace molto mangiare bene, però attenzione agli sprechi, perché non si fa, insomma, non è una bella cosa assolutamente. Certo. Allora, ci dica un po' qual è il suo stile di condotta quotidiano per evitare appunto di sprecare, a parte che lei dice eticamente io evidentemente quello che compro mangio, non butto nulla, però insomma non è facile per tutti, se si hanno delle famiglie numerose, bambini, si cucina, tutto rimane là, magari si deperisce il cibo in frigorifero, insomma lei che fa, Mario? Qui ci viene in aiuto la tecnologia. Prima di tutto un buon banchetto surgelatore è l'ideale, perché non è detto che bisogna necessariamente fare la spesa quotidianamente. Per quanto riguarda gli alimenti più deperibili, tipo pesce, carne e così via, possono tranquillamente restare qualche giorno in congelatore e quando è il momento di consumarli vengono estratti e consumati. E a parte questo ci vuole un po' di pianificazione, cioè bisogna sapere che quel giorno andremo a mangiare quel tipo di piatto, quell'alimento, per quante persone e così via. Quindi Mario mi sta dicendo che lei fa quello che noi abbiamo suggerito tante volte, il diario alimentare. Sì, in un certo senso sì, assolutamente. O comunque l'agenda, insomma, oggi mangerò questo, dopo domani questo. Ecco, perfetto. In una certa misura, ma non è solo questo, bisogna anche fare attenzione alle quantità, alle portate e anche a come si maneggiano i cibi, perché i cibi ovviamente vengono buttati via soprattutto non tanto perché rimangono dopo il pasto, ma perché deperiscono, certo. Perché sono stati conservati male, per esempio. Mario, grazie per tutti i suoi suggerimenti, per la sua sensibilità. Tra poco raccoglieremo anche i temi proposti da altri ascoltatori. Volevo però ritornare per un attimo a Marco De Ponte per ActionAid Italia. Peraltro, magari De Ponte, possiamo fare un veloce biglietto da visita di questa organizzazione per capire che cosa fate. E un altro tema che avete affrontato nell'indagine che avete diffuso proprio oggi in occasione della Giornata Mondiale dell'Alimentazione è quella parte relativa alle situazioni della nostra vita quotidiana in cui non siamo noi a scegliere i prodotti che mangiamo, vale anche per i nostri bambini. Mi riferisco alle mense. Voi in merito a questo quali dati avete raccolto e che posizione avete? Grazie, riesco a rispondere a tutte e due le cose assieme. Noi ci occupiamo di ristorazione nelle scuole perché crediamo che i comportamenti dei cittadini e di tutti quelli che ruotano attorno alla filiera del cibo nel nostro paese, nel nord del mondo, poi abbiano degli impatti anche abbastanza diretti su quello che avviene in paesi più poveri, dove l'accesso al cibo sembra essere un problema più grave. Allora, la ristorazione scolastica perché è importante? Perché 10 milioni di persone ogni giorno ruotano attorno a 380 milioni di pasti che in un anno vengono serviti nelle scuole italiane. È una partita che vale 1,3 miliardi. Quindi le attenzioni che diceva il signor Mario o chiunque presta, diciamo, come mangia a casa sua, quando si ribaltano in maniera metodica sulla ristorazione pubblica, vale anche per gli ospedali, ma appunto noi ci siamo focalizzati sulle mense scolastiche, hanno un potenziale enorme di orientare la domanda. Essendo una partita così importante, essendo così tanti, 2 milioni al giorno i pasti che vengono consumati nelle scuole, quando i cittadini cominceranno sempre più, già lo stanno facendo, a pretendere che nelle scuole si mangi di qualità, si mangi a un prezzo equo, non si mangino cose impacchettate all'infinito che fanno salire il prezzo o magari che vengono dall'altra parte del pianeta senza che ce ne sia necessità, producendo tutta una serie di sprechi lungo la filiera, come diceva il collega di Coldiretti. Allora non faremo più solo azioni simboliche per ragioni etiche, ma faremo veramente pressione alle istituzioni, i produttori, i distributori, perché possa, orientando questa domanda, possono cambiare, come dire, anche i parametri economici sui quali ci muoviamo. Quindi per noi è una partita importantissima che passa dalla presa di coscienza dei cittadini e dalla presa di d'atto che le politiche dei governi cambiano di conseguenza. Difficile che avvenga al contrario. Felicità, non sei in città, viva la campagna, viva la campagna, la città. E quindi grande attenzione anche a quello che si consuma nelle mense, una particolare attenzione di ActionAid relativamente all'attività che si fa nelle mense scolastiche, un comparto, come ci diceva Marco De Ponte, dove si consumano 380 milioni di pasti all'anno. Noi salutiamo Marco De Ponte, segretario generale di ActionAid Italia. Fra poco devo ritornare alle borse, ma volevo far fare un altro commento a Lorenzo Bazzana di Coldiretti, prendendo a pretesto magari un altro commento di un altro ascoltatore, in questo caso di un'ascoltatrice che è Daniela dalla provincia di Firenze, che salutiamo. Daniela, buongiorno. Buongiorno, complimenti per la trasmissione, ascolto tutti i giorni. Che bello questo accento toscano, Daniela, ci piace. Lei proprio ce l'ha proprio bello marcato. Ci dica. Sono d'accordo con quel signore di prima sullo spreco, non deve essere assolutamente in nessuna casa, però bisogna anche comprare la roba, non in tante quante sta. Anche se sono un'offerta, ma se le roba deferibile, non certo. Si lascia perdere. Non può comprare 25 carciofi perché costano poco e poi non te li mangi. E certo. Perché tu sei in tre. E certo, perché tanto lo spreco l'ha fatto lo stesso Daniela, non è stato di denaro ma è stato di cibo, che forse è peggio dal punto di vista etico, come dicevamo questa mattina. Lei insomma è organizzata in questo modo, compra anche lei, fa la sua agenda alimentare, quello che le serve compra. Io compro poco perché io la produco le cose, io ho un orto. E tutti ora dicono dell'orto, però è faticoso lavorare la terra, credetemi. Però i nostri nonni, tanta passione. È vero. Tra l'altro, Daniela, grazie per il suo commento. Bazzana, poi magari approfondiamo questo aspetto nella seconda parte del programma, però siccome c'è questo non è un rischio di abbandono dei lavori della terra, è qualcosa che è diventato concreto negli ultimi anni, perché è faticoso e soprattutto perché chi si dedica a questa professione non ha una remunerazione molto soddisfacente, questo lo dobbiamo dire. Per la prima volta lo Stato venderà o affitterà i propri terreni ai giovani che vogliono diventare imprenditori agricoli. È il decreto Terre Vive che prevede questa possibilità e il decreto è stato proprio un'iniziativa del ministro delle politiche agricole Maurizio Martina. Che punto è questa iniziativa, Bazzana? Poi andiamo in borsa. Sì, questa iniziativa in sostanza è in, ai blocchi di partenza. È già successo qualcosa con alcune regioni che già si sono mosse assegnando dei terreni ai giovani. Adesso entro ottobre dovrebbe apparire appunto sul sito del Demanio quelli che sono i primi bandi di vendita di questi terreni pubblici. Saranno circa 5.000 ettari che potranno essere messi a disposizione appunto dei giovani per essere acquistati o per essere affittati, e noi speriamo che questo possa rappresentare un volano importante per imprese agricole o per nuove imprese agricole che magari potranno nascere con anche nuovi imprenditori che si vorranno rivolgere a questo settore. C'è interesse fra i ragazzi, Bazzana, oppure sono un po' scoraggiati? C'è interesse rispetto a quello che era una volta in passato, perché è cambiato l'immagine dell'alimentare e dell'agroalimentare, nel senso che oggi fare il professionista dell'alimentazione e quindi fare colui che produce alimenti e quindi cibo non soltanto è bello ma è anche gratificante, è ritenuto diciamo essere un mestiere di successo e quindi c'è un ritorno alla terra. E questo un po' anche grazie ad iniziative speciali. Adesso non vorrei sempre scomodare il solito Oscar Farinetti con Italy, ma ce n'è anche un'altra molto bella che vi raccontiamo tra poco. Great Italian Food Trade è un'iniziativa portata avanti dall'avvocato Dario Dongo, che sarà il nostro ospite dopo le borse. Spaghetti, pollo, insalatina, una tazzina di caffè, a malapena riesco a mandar giù. Invece ti ricordi che appetito insieme a te a Detroit. Ed eccoci ritrovati. Oggi sono da sola, senza Nicoletta che torna domani, ma naturalmente mi ha lasciato in consegna un tema che ci piace molto, un tema che tradizionalmente si presta molto al taglio di cuore e denari. Oggi è la giornata mondiale dell'alimentazione, stiamo chiedendo anche a voi una riflessione sulle vostre scelte alimentari. Le fate con attenzione o a volte sprecate un po' e siete costretti poi a buttare con naturalmente un po' anche di mal di stomaco? È chiaro, perché non è che ci piace poi compiere questa scelta, però lì insomma il cibo magari che non consumiamo tutto, non mangiamo tutto, lo lasciamo in frigorifero, poi magari non ci piace mangiare l'avanzo, lo lasciamo lì per qualche giorno fino a quando non siamo costretti a buttarlo. Oggi molti giornali naturalmente enfatizzano questa giornata. La Stampa riporta i numeri dello spreco che vengono forniti dal rapporto 2014 della FAO, l'impronta dello spreco alimentare. E naturalmente cosa dice questo rapporto? Che non si può non considerare con sconforto come il 45% della produzione mondiale di frutta e verdura, il 30% di pesce, il 20% di carne finiscano in una virtuale colossale pattumiera. 800 24 00 24 per parlare con noi di tutto questo. Nel frattempo ci ha raggiunto l'ospite che vi avevo preannunciato prima, l'avvocato Dario Dongo, esperto in diritto alimentare ma soprattutto promotore del progetto Great Italian Food Trade. Avvocato, buongiorno e benvenuto. Deborah, buongiorno, molto piacere di sentirvi. Perché parlavamo prima e qualche ascoltatore come dire ci racconta anche un po' l'esperienza che ha fatto girando all'estero di impatto con quello che viene commercializzato altrove come cibo italiano e invece naturalmente non lo è. E quindi stamattina cercheremo anche un po' di capire attraverso gli aneddoti, se gli ascoltatori vorranno raccontarci, di come fare per mangiare, se siamo così campanilisti, italiano anche quando andiamo all'estero. 800 24 00 24 per farlo in diretta, oppure scriveteci su Facebook, su Twitter o al 349 238 6666. Prima di sentire l'avvocato Dongo volevo rispondere a Roberto che ci chiede se possiamo ripetere il sito dove danno la terra in affitto allo Stato. Allora, non è esattamente così. Lo Stato ha promosso questa iniziativa che ci ha spiegato prima Lorenzo Bazzana di Coldiretti, il decreto Terre Vive, quindi Roberto cerchi queste informazioni. È un'iniziativa con il quale il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha messo, sostanzialmente consente la messa in vendita o in locazione di 5.500 ettari di terreni agricoli pubblici con prelazione agli under 40, cioè giovani sotto i 40 anni. Per cui cerchi questo passo, decreto Terre Vive, se non trova appunto le informazioni ci scriva a cuoredenari@radio24.it e le daremo tutte le informazioni necessarie. Avvocato Dongo, cercare e trovare i prodotti italiani nel mondo, qualche volta siamo anche un po' fissati, no? Perché magari andando all'estero potremo anche mangiare i prodotti del posto prima di fissarci così con il cercare l'italiano, però ne va in realtà magari un controllo del presunto made in Italy che troviamo in giro è importante soprattutto per, come dire, anche i flussi commerciali di questi prodotti verso l'estero. È un problema sentito da... le borse. Non mi faccia parlare di questo argomento oggi, noi vogliamo stare con i piedi per terra, è proprio il caso di dirlo, perché la borsa ci sta facendo andare di nuovo un po' in agitazione. Dongo, ci dica un po' che cosa troviamo, insomma, all'estero, questo fenomeno dell'Italian sounding è ancora molto... Il fenomeno dell'Italian sounding ha dimensioni inimmaginabili e anche difficili da stimare. La realtà che è sotto gli occhi di tutti coloro che viaggiano e che hanno un minimo di attenzione al cibo italiano è quella di trovare prodotti che vengono presentati o con marchi di suono italiano o addirittura anche con riferimenti al tricolore o a simboli che sono caratteristici del nostro paese, ma in realtà si tratta di prodotti realizzati in qualsiasi altra parte del mondo, spesso negli stessi paesi dove sono commercializzati. Questo è il fenomeno dell'Italian sounding, che è pressoché impossibile da contrastare, almeno dal punto di vista legislativo, legale, se non attraverso accordi appositi che devono intercorrere tra l'Italia o l'Europa, di cui l'Italia è parte, e i paesi terzi, ma invece va affrontato, a nostro avviso, con la cultura. Certo. Avvocato Dongo, adesso ci racconterà bene che cosa fate con Great Italian Food Trade e magari qualche piccolo commento sulla giornata mondiale dell'alimentazione, e ve lo siete riservato anche voi. Certo, molte grazie. Il progetto Great Italian Food Trade nasce nel 2012 proprio con l'intento di promuovere nei cinque continenti una cultura autentica sulla produzione agroalimentare italiana, in particolare quella orientata verso le migliori prassi coerenti con uno sviluppo sostenibile, quindi vale a dire nel rispetto di ambiente, territori, società e lavoratori. È un progetto editoriale di grande rilievo poiché è realizzato in 8 lingue, abbiamo una redazione di madrelingua, non ci appoggiamo ai Google Translate proprio per cercare di mediare culturalmente, certo, la nostra esperienza. Perché è anche un'operazione di mediazione culturale, ha fatto bene appunto a puntualizzare questo aspetto, giusto? Assolutamente, perché vi sono prodotti per noi scontati, pensiamo ai grissini, abbiamo in Italia il leader europeo e forse mondiale nella produzione di grissini, ma se si provasse a comunicare l'esistenza del grissino in paesi al di fuori dell'Europa che non hanno questo tipo di esperienza, è difficile, sarebbe molto difficile riuscire a intercettare la loro attenzione. Non le dico intanto che cosa ci stanno raccontando i nostri ascoltatori, che si sono sbizzarriti naturalmente con il reportage dei loro viaggi su quello che mangiano. In North Carolina un ascoltatore su Twitter ci scrive: il pesto alla ligure è fatto in America Latina e altri prodotti confezionati, sono rimasto senza parole. Biagio, sempre su Twitter: un mio amico a Stoccolma ha mangiato le lasagne cucinate da egiziani, ma questo non sarebbe un problema se le cucinassero, secondo, magari sono stati anche in Italia, e molto spesso anche gli egiziani in Italia cucinano la pizza molto meglio di noi, sicuramente molto meglio di me, per cui poi bisogna anche vedere i criteri con cui questi prodotti si cucinano. Vorrei sentire, in realtà adesso abbiamo i suggerimenti perché in viaggio, però Massimo da Latina aspetta da tanto, sentiamolo, perché sono molto curiosa di questo allevatore, della vita di questo e della storia di questo allevatore. Massimo, benvenuto. Sì, buongiorno. Ci dica. Allora, guardi, io sono un allevatore, levo pecore. Sì. Sto pascolando le pecore adesso. Bravo, e ascolta Radio 24, lei è un numero uno, Massimo, il nostro nuovo mito. Sì. Guardi, io le volevo dire, no, io mi impegno molto nel fare un prodotto buono, senza usare mangimi, e, diciamo, estrogeni, antibiotici, eccetera eccetera, però quando che vado sul mercato, sì, ci stanno i commercianti che mi dicono: oh, ma le catene alimenti, cioè queste le catene di grande distribuzione, il prodotto lo stanno a vendere a 6 euro, certo, e noi ti possiamo dare al massimo 7, e io a 7 euro ci rimetto. Certamente, Massimo. Tra l'altro, quante pecore ha nel suo allevamento? Ma io ho 250 pecore, cioè pecore e capre. Che tra l'altro, Massimo, queste qua mangiano tutti i giorni, quindi lei se ne deve prendere cura 7 giorni su 7, per cui anche noi come consumatori, quando poi andiamo al farmer market o al prodotto, o, come dire, ai mercati di campagna amiche, vediamo che qua i prezzi che ci praticano gli agricoltori sono un po' più alti. Guardate che stiamo remunerando queste vite che sono anche molto difficili da condurre, giusto Massimo? Perché ma per lei non è... assoluto, ma noi facciamo una vita, cioè noi lavoriamo minimo 13-14 ore al giorno. Infatti. Cioè, non le dico, cioè, è una vita molto dura, cioè è una vita che comunque, come si dice, signore si nasce, noi pastori si nasce, bravo, si diventa. Massimo, tenga duro perché ritorneremo, speriamo, tanto qua. No, guardi, questa finanza noi la vogliamo anche un po' abbandonare perché ci sta di nuovo facendo andare sulle montagne russe. Vogliamo tornare alla terra, tenga duro, e cercheremo di far passare questo messaggio anche ai nostri consumatori. Se volete proprio pagare quasi niente quello che mangiate, sappiate che poi, ecco, ci vanno di mezzo le vite di piccoli imprenditori agricoltori come quella di Massimo. Messaggio etico. Adesso andiamo ai suggerimenti perché in viaggio, poi voglio sentire cosa ne pensa Lorenzo Bazzani. Cuore e denari. Maccheroni, non ce ne ti distruggo, Senac. Che mi guardi con quella faccia intrepida? Mi sembri un verme, Maccheroni. Questa è roba americana, vedi? Yogurt, la mostarda, o latte, roba sana, sostanziosa. Maccherone, mi hai provocato e io ti distruggo adesso, Maccherone. Io me ne magno. Allora, molti ascoltatori sono rimasti colpiti dalla testimonianza del nostro allevatore di pecore e capre, il nostro Massimo. Luca ci scrive: brava per il messaggio etico, speriamo che l'allevatore e i suoi colleghi tengano duro, io cerco di acquistare direttamente dai produttori. Altri ascoltatori ci scrivono: io cerco prodotti come quelli di Massimo, vorrei pagarli anche per tali, ma al supermercato non li trovo e non vengono distinti dagli altri. Bazzana, molti ascoltatori non conoscono anche le vostre iniziative, campagna amica e tutte le altre, appunto per avvicinare i consumatori al mondo della produzione agricola. Quante storie come quella di Massimo le potrebbe raccontare? Centinaia se non migliaia. Noi ci dobbiamo però rendere conto di una cosa, che come consumatori abbiamo un coltello dalla parte del manico, sia che andiamo in un mercato dei produttori, ma anche quando andiamo presso la grande distribuzione o il dettaglio di tipo tradizionale, noi con le nostre scelte, quando allunghiamo la mano verso uno scaffale, decidiamo la vita o la morte di un'impresa, di un'azienda agricola. E quindi da questo punto di vista noi possiamo assolutamente condizionare quelle che sono le scelte, quelli che possono essere i cambiamenti del mercato. Infatti è molto strano che arrivino, come dire, molti messaggi, molti commenti anche al nostro numero verde in cui gli ascoltatori esprimono il loro appoggio alle, come dire, alle idee che stiamo diffondendo stamattina, la loro condivisione su questi messaggi. Poi di fatto dobbiamo contestualmente raccontare anche di questi enormi numeri sullo spreco alimentare. È veramente una contraddizione incredibile, Bazzana. Certo, è una contraddizione incredibile e soprattutto è una contraddizione che poi trova un punto debolissimo nel momento in cui, giornata dell'alimentazione, scopriamo che i prezzi mondiali all'origine sono ai minimi termini da 5 anni, quindi sono i più bassi a partire dal settembre 2010, e quindi nella sostanza noi rischiamo che allevatori come Massimo che abbiamo sentito prima o coltivatori come tanti altri abbandonino quelle zone che in questi giorni vediamo flagellate da delle calamità naturali che nel caso specifico hanno molto spesso colpito tutto il nostro stivale per tutta l'estate. Esatto. E quindi dobbiamo riuscire a far sì che queste persone che fanno un'attività che in certi casi è addirittura eroica, perché sono in condizioni pedoclimatiche assolutamente difficoltose, riescono a continuare a fare quel loro lavoro che ci dà almeno due risultati. Un risultato sono prodotti di qualità, di eccellenza, che tutto il mondo ci invidia, e l'altro risultato è il presidio del territorio, per evitare che fatti climatici o di altra natura facciano precipitare giù il nostro territorio e ci portino in condizioni di disperazione come quelle di questi giorni. 800 24 00 24, vogliamo raccogliere ancora i vostri commenti sul tema di questa mattina che si presta davvero a tante declinazioni. Noi cerchiamo di fare una sintesi su tutto, soprattutto grazie alla vostra sensibilità su questi argomenti. Andrea da Bergamo, benvenuto. Sì, salve. Io volevo fare sono un tecnico e mi capita a volte di fare degli interventi all'interno di centri commerciali anche molto grandi. Non davanti, dietro, dove ci sono i cassoni dove buttano carta, cartone, e mi è capitato di vedere spesso container anche molto grandi, sto parlando 7, 8, 10 metri cubi di volume, pieni di tutto, di più, parlo di pane, pasta, verdura, frutta. Io ho provato a vedere una volta all'interno di questi cassoni, ho preso una confezione, semplicemente l'ha buttata perché mancava un giorno alla scadenza. Esatto, cioè veramente molto spesso. Anche prosciutto, carne, sì, sì. È una cosa impressionante. Ma perché lì c'è tutto un giro di, evidentemente, Andrea, non vorrei banalizzare la questione, di interesse, chiaramente si buttano via dei prodotti, di conseguenza si permette ad altri produttori di prodotti, ci sono tutti degli accordi anche commerciali fra la grande distribuzione e la produzione che devono essere rispettati, di conseguenza se poi rimane l'invenduto non si possono rifornire di nuovo i centri commerciali, i supermercati, quindi è tutto un giro che ha un po' questa dinamica che chiaramente a noi disturba molto, soprattutto nella modalità in cui ce l'ha raccontata Andrea, quindi la ringrazio doppiamente di questa testimonianza. Dongo, avvocato Dongo, se vuole un commento su questo, perché lei sul tema dell'alimentare ha una sensibilità a 360 gradi, e poi se vuole anche raccontarci un po' in giro per il mondo quali sono i prodotti che, oltre al parmigiano, la pasta e la pizza, amano tanto dell'Italia e su quali filoni state lavorando adesso con il vostro Great Italian Food Trade. Sì. Beh, un brevissimo commento all'ultima chiamata. Il tema dello spreco degli alimenti ancora commestibili da parte della grande distribuzione è oggetto di particolare attenzione, in particolare da alcuni gruppi della distribuzione organizzata in Italia, perché tanto si può fare anche con l'aiuto di strutture eccezionali ed eccellenti quali il Banco Alimentare, mm-hmm. piuttosto che quali i City Angels, che pure provvedono alla raccolta di cibi per la distribuzione ai disperati che dormono per le strade delle città. Quindi su questo qualche cosa si può fare, e noi come consumatori possiamo stimolare attraverso le nostre scelte, attraverso istanze e petizioni, affinché i distributori assumano comportamenti responsabili. Se possibile, Deborah, vorrei anche fare un piccolo commento, sì, rispetto alle preziose parole di Massimo sul valore delle nostre scelte di consumo. Certamente ricordiamo della nostra agricoltura, che è indispensabile a mantenere anche il territorio e a contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici, ma ricordiamo anche la nostra industria, ricordiamo anche le nostre piccole e medie imprese, che rappresentano oltre il 90% e quindi la spina dorsale, tanto in termini di fatturato quanto in termini di occupazione. 30 secondi, quindi, avvocato Dongo, che poi devo chiudere purtroppo. Compriamo italiano, compriamo ciò che è realizzato in Italia. All'estero il prodotto italiano, il made in Italy, piace sempre più, è sempre difficile trovarlo, ed è perciò che bisogna fare cultura, insegnare alle popoli, alle popolazioni del mondo a consumare italiano, a consumare l'autentico italiano. La pizza è un esempio clamoroso, sappiamo degli altri che sono platealmente imitati, come il parmigiano, l'olio, esatto, d'oliva soprattutto. E andate a vedere, allora, se siete una piccola azienda magari del Made in Italy agroalimentare, Great Italian Food Trade vi aiuta anche a farvi conoscere sui mercati internazionali grazie all'attività dell'avvocato Dongo. Grazie anche a Lorenzo Bazzana, noi andiamo al giornale radio, risentiremo la borsa e poi torniamo con Stefano Polato. Cuore e denari. Grande magazzino una volta al mese, spingere un carrello pieno sotto braccio a te, e parlar di surgelati rincarati, far la coda mentre sento che ti appoggi a me. Ma anche Lucio Battisti in tempi non sospetti raccontava delle difficoltà dell'andare al supermercato con questi prezzi che vanno in realtà sempre più verso il basso, anche se molti consumatori naturalmente lamentano il fatto di non vedere poi tutte queste discese. Per i prodotti dell'agricoltura invece le discese ci sono, e come, e se al supermercato non sempre le vedete perché come dire, forse non abbiamo proprio la piena consapevolezza delle difficoltà che vivono gli agricoltori, quelli che si occupano della nostra terra. Siamo chiaramente abituati anche a consumi globali, le fragole spagnole anche quando non è stagione, i limoni che arrivano ad ogni parte del mondo, insomma siamo un po' comodi anche da questo punto di vista e facciamo delle scelte che poi compromettono anche la qualità del lavoro dei nostri agricoltori. Ma dall'agricoltura familiare, a cui è dedicata la giornata mondiale dell'alimentazione, della quale ci siamo ampiamente occupati nella prima parte del programma, adesso andiamo alla routine familiare. Chi fa la spesa sa bene che il risparmio inizia proprio davanti ai banchi del mercato o del supermercato, tra gli scaffali di questo, e poi prosegue a casa fra frigorifero e fornelli, e nella cucina di Cuore Denari c'è ad attenderci uno dei nostri migliori amici, il cuoco Stefano Polato, che salutiamo. Buongiorno, ben ritrovato Stefano. Ciao, buongiorno Deborah, grazie ancora dell'invito, è sempre un piacere. Grazie Stefano, oggi ci devi anche un po' aiutare a sollevarci il morale parlando di cose buone, perché qua la borsa vacilla di nuovo. Noi vogliamo invece staccarci dalle dinamiche dei mercati finanziari e parlare di qualcosa di più concreto. Stefano Polato, lo ricordo per i nostri affezionati ascoltatori, ha seguito tutto il percorso delle reality di Nicoletta Carbone con Essere Benessere, Mangia con me. Allora, restiamo in tema con la giornata. Andiamo a vedere, poi sentiremo anche le proposte delle nostre ascoltatrici e dei nostri ascoltatori. Andiamo a vedere cosa offre la terra in questo periodo dell'anno. Stefano, quali sono i prodotti più interessanti con i quali anche ti stai un po' sbizzarrendo con le tue proposte? Sì, allora parto dicendo che questo periodo dell'anno, per chi si diletta in cucina, è il periodo più divertente, se vogliamo dire, perché offre una varietà di prodotti fra frutta e verdura eccezionale. Allora, partiamo dalla verdura, i broccoli, la fanno da padrone, carciofi, cardi, cavolfiori, ma ancora finocchi, sedano, sedano rapa, topinambur, verze e le fantastiche zucche, insomma, che in questo periodo non solo danno sapore ma anche colore. Hai proprio una predilizione, insomma, per le zucche, dal modo in cui hai rimarcato sul finale le grandi zucche, insomma, ti piacciono. Sì, io vivo al confine, diciamo così, fra la provincia di Padova e quella di Verona, sì. Quindi è una zona dove la zucca è molto battuta. Ero ad una cena a Vicenza giovedì scorso, Stefano, poi ti racconto come ce l'hanno proposta e vediamo se tu ti sei mai cimentato in questa modalità. Intanto dici un po'. Allora, andando avanti, ovviamente tutta la varietà di funghi che ci si presenta nei nostri boschi, quindi pioppini, porcini, finferli, gallinacci, e passando invece alla frutta, ovviamente non posso non elencare gli agrumi che proprio ora stanno raggiungendo la loro maturazione, ma ancora i cachi ad esempio, le fantastiche castagne, i fichi. Tra l'altro, quindi guarda, la varietà, il cesto è veramente molto abbondante. Peraltro, a proposito delle castagne, c'è un raccolto invece in grande difficoltà. Quest'anno lo segnalavano proprio ieri gli amici di Coldiretti, e quindi veramente a trovarne, forse quest'anno non so se si farà fatica o meno, temo di sì, c'è appunto un raccolto proprio ai minimi, ma magari poi ne parliamo. Intanto, Stefano, prima di andare alle tue ricette, le ricette alla Cuore Denari, quindi prelibate, buone, complete dal punto di vista nutrizionale, corrette anche dal punto di vista economico, ti faccio sentire un po' una nuova considerazione di un'altra ascoltatrice, che è Carla da Roma, perché prima abbiamo fatto l'approfondimento sul tema dello spreco alimentare, attorno al quale c'è grande sensibilità anche da parte degli chef professionisti, e quindi gli ascoltatori si sono davvero scatenati questa mattina. Carla da Roma, benvenuta. Buongiorno a tutti, grazie di questa opportunità. Io volevo dire una cosa, forse un po' contro tendenza, però da diversi anni io e la mia famiglia scegliamo cibi in particolare italiani di qualità, ed è anche vero che seppur possono costare un qualcosa in più, ma di fatto poi fanno risparmiare, perché uno è molto più attento a quanto ne compra, alle quantità, non sono più i chili ma i grammi, cioè c'è una sorta di analisi proprio sul menù da cucinare durante la settimana, che permette anche, perché no, di riuscire pure a risparmiare. Guardi Carla, è in realtà una teoria molto diffusa, quella relativa al fatto che se uno si gratifica dal punto di vista qualitativo con l'alimentazione, mangia intanto un po' di meno, quindi ne va anche a beneficio della linea, del suo stato di salute complessivo, e credo che su questo possa essere d'accordo Stefano Polato. Se il palato è gratificato, abbiamo forse bisogno di mangiare un po' meno e quindi stiamo meglio anche da questo punto di vista, oltre al risparmio economico. Polato? Ma assolutamente sì, ma credo sia anche una cosa valutata a livello scientifico, sì, e avvallata, diciamo, da questo punto di vista. È un po' il concetto di felicità: nel momento in cui siamo felici tutto gira per il verso giusto, e anche il palato, nel momento in cui è appagato, dà un senso di serenità. È vero. 800 24 0024, se volete condividere con noi le vostre ricette antispreco, aprite il frigorifero, diteci anche in base a quello che è rimasto negli ultimi giorni cosa avete intenzione di mettere a tavola oggi a pranzo e stasera a cena. Stefano Polato, acquistare prodotti di stagione è vantaggioso da più punti di vista, lo sappiamo, ci guadagnano il gusto, la salute e il portafoglio. Non è facile però comprare, perché a volte si compra troppo, non si sceglie bene, la verdura ha tanto scarto, qualche consiglio pratico di fronte a questi problemi? Allora, l'abbiamo già trattato in varie occasioni. Un metodo per poter risparmiare e per poter non sprecare nulla è quello di stilare una lista settimanale di prodotti da acquistare. Meglio sarebbe ancora fare un menu settimanale, così riusciamo anche a distribuire equamente gli ingredienti durante la settimana in modo sano ed equilibrato. E poi un'altra cosa da fare molta attenzione, l'abbiamo già detto prima con i precedenti ospiti, è capire da dove arriva la frutta e la verdura. Okay? Da più lontano arriva la frutta e la verdura, già questo è sintomo che abbiamo perso qualcosa per strada, in particolar modo tantissimi valori nutrizionali, ad esempio le vitamine, e dopo qualche giorno dopo la raccolta inizia un deterioramento da questo punto di vista. Quindi l'idea è quella di guardare sempre l'etichetta del prodotto che andiamo ad acquistare e che sia almeno scritto origine Italia, poi se c'è qualche fruttivendolo ancora più serio indica addirittura la regione. Quindi fare attenzione da dove arriva questo prodotto, perché innanzitutto mangiamo un prodotto più sano, inquiniamo meno, quindi non solo facciamo bene alla nostra salute ma facciamo bene alla salute di tutti e del nostro pianeta, e come dicevamo prima è impensabile che alimenti come la ciliegia del Cile siano fra i primi posti a livello di inquinamento globale, insomma. Quindi deve far molto pensare questo concetto. Ritorniamo alla frutta e alla verdura con tutto l'elenco che ci hai fatto prima, Stefano, e cerchiamo anche un po' di capire e dare qualche suggerimento pratico sulle modalità migliori per conservare questi alimenti che appartengono soprattutto al settore vegetale. Parlavi prima di funghi, ci sono alimenti che naturalmente possono deperire prima di altri, il fungo, i broccoli, i carciofi, ecco, chiaramente tutti hanno anche come dire dei tempi di conservazione che probabilmente saranno diversi. Entro quando suggerisci di consumarli per godere completamente delle loro proprietà nutrizionali? Ecco, non lo sapremo mai perché Stefano Polato naturalmente è caduto, adesso sta a guardare che mi fa cimentare anche in una ricetta, così poveri ascoltatori, oggi veramente provo con indigestione generale, ma adesso lo recuperiamo immediatamente. Intanto vi leggo anche qualche messaggio che chiaramente qua anche i polemici un po' si sbizzarriscono quanto più possono, spero che non si senta tale. Vito da Bari che ci scrive: quando vado dal fruttivendolo chiedo un determinato tipo di insalata, lui mi dice la vuoi locale e io gli chiedo perché costa meno, lui no, quella locale costa di più. Io borbotto e ritengo che sia una fregatura quella del chilometro zero, ma guardi Vito, loro producono meno, quindi come dire, chiaramente spendono di più, non si fanno le cosiddette economie di scala che realizzano invece i grandi produttori. E questo però insomma è un concetto economico un po' complesso da spiegare, però bisogna un attimo anche che si capiscano certe dinamiche. Stefano Polato, si è scaricata la batteria. Marco da Rovigo. Polato ancora non riusciamo. Marco, buongiorno. Ah, ecco, buongiorno. Sì, infatti mi aveva incuriosito la sua telefonata. Marco, ci dica un po'. Riesco solo a digerire pasta all'uovo e magari qualche ricetta in più anche, magari per l'età che sta cambiando, non so. Certo, grazie Marco. Allora lei non riesce più a mangiare diciamo la pasta di tipo tradizionale, lei solamente quella, che poi è anche strano, digerire solo ed esclusivamente quella all'uovo, che magari per qualcuno invece risulta essere un po' più pesante. Polato, eravamo rimasti ai tempi di conservazione dei vegetali che sono tipici di questo periodo, quanto conviene conservarli per non far perdere loro naturalmente tutte le proprietà nutrizionali? Sì, allora facciamo qualche esempio. Bene. Ortaggi come broccoli, cavolfiori e cavoletti. Si mantengono per una settimana in frigorifero, ad esempio i broccoli, sempre sul ripiano più basso, che è tra l'altro il ripiano più fresco del frigorifero, e il cavolfiore per 2 settimane e i cavoletti di Bruxelles addirittura per 3 settimane. E poi un'altra cosa interessante da fare è al momento dell'acquisto fare attenzione, la scelta deve ricadere su frutta e verdura, ovviamente dall'aspetto fresco, senza ammaccature, appunto conservare questi prodotti in frigorifero. Altri prodotti, tipo i funghi, vanno conservati sempre in frigorifero, però non chiusi, quindi sempre ben arieggiati, possibilmente aperti nelle loro cassettine o comunque nelle loro vaschette, però non chiuse. Ad esempio troviamo nella grande distribuzione i funghi in vaschetta ricoperti con la pellicola. Sì. Ecco, è buona norma levare la pellicola e lasciarli all'aria. Senta, i cachi invece, io ho questa immagine di mia nonna che li conservava in una cassettina di legno fuori dalla finestra. Assolutamente sì, i cachi devono più o meno avere lo stesso ambiente che avevano quando erano ancora attaccati all'albero. Certo. Quindi per favorire la maturazione, perché a volte si raccolgono che non sono ancora completamente maturi, li si lascia fuori dalla finestra appunto a temperatura ambiente. 800 24 00 24, intanto ancora molti ascoltatori ci stanno un po' commentando le loro abitudini di consumo alimentari, di acquisto. Gnocchi di zucca a pranzo, minestra d'orzo per cena, grazie Radio 24, Maria ci fa questo splendido menù di questa giornata. A proposito della zucca, le racconto come me l'hanno cucinata la settimana scorsa, Polato, ti racconto, anzi perché ti davo del tu poco fa, in forno. Tagliati naturalmente, una zucca tagliata in 3-4 pezzi, quindi anche delle porzioni piuttosto grandicelle, con la buccia lasciata là, e mi hanno spiegato che per togliere un po' l'amaro della buccia esterna hanno messo dello zucchero a velo in forno, nell'alluminio praticamente, e quindi era una zucca al forno semplicissima ma di una bontà stratosferica. Ti è capitato di cucinarla così? Sì, la zucca al forno la propongo spesso e anche mi piace particolarmente. Sì. Mi piace anche, io essendo veneto amo molto, esatto, il cosiddetto saor, quindi abbinata con pinoli, uvetta e cipolla, quindi passata prima al forno e poi assemblata con un po' di cipolla, mi piace da morire. Senti, adesso andremo ai segreti del broccolo trasformista, però l'ascoltatore di prima che adesso riesce a consumare quasi solo ed esclusivamente, o comunque prevalentemente, la pasta all'uovo invece di quella normale, hai una ricetta volante, un paio di idee per diversificare un po' la cucina di questa pasta che già da sola è un po' impegnativa perché quella all'uovo è pesantina, quindi credo che anche il condimento debba essere leggero, quindi adeguato. Che cosa ci suggerisci? Sì, beh, adesso è anche stagione di tartufi, quindi una grattata di tartufo nero e via. Scortone, che insomma è anche accessibile, evitando magari quello bianco che ha ancora costi troppo elevati, oppure con i funghi, le tagliatelle con i funghi ad esempio. Ma anche prima abbiamo parlato di castagne, anche nell'impasto della pasta all'uovo utilizzare metà farina di grano e metà farina di castagne è un bel escamotage. Eccolo qua. Da un bel gusto. Allora, il broccolo trasformista mi ha suggerito di chiedertelo in questa maniera, Nicoletta. Trasformista perché intanto? Perché, allora, innanzitutto bisogna fare una precisazione che della frutta e la verdura si può utilizzare sempre e comunque tutto, a patto che arrivi arrivi dal nostro orto o comunque arrivi da un'agricoltura attenta e possibilmente biologica, perché altrimenti, faccio un esempio, se mangiamo la mela con la buccia e tutto rischiamo di mangiare antichittogrammici e quant'altro, pesticidi. Quindi la condizione sine qua non, diciamo che deve essere un frutto o una verdura controllata, in questo caso il broccolo a me è un altro di quegli ingredienti che adoro, perché è spesso bistrattato, il broccolo al vapore, il broccolo bollito. Sì, infatti, sembra solo che paga molto, associato proprio alla dieta ristrettissima, Stefano, esatto, invece non è così. Esatto, invece tutte le brassicacee sono da rivalutare dal punto di vista nutrizionale. Comunque, trasformista perché ci permette di utilizzare gambo, fusto e foglie. Proponiamo proprio una ricetta oggi in modo da utilizzare tutto, anzi sono 2 ricette. In una ricetta utilizzeremo il fusto vero e proprio, E nell'altra ricetta usiamo il gambo e le foglie per produrre un pesto. Andiamo velocemente, Stefano, perché abbiamo un minuto prima dei saluti. Ok, allora andiamo a cuocere a vapore le foglie e il gambo tagliato a pezzetti. Una volta ammorbidito, frulliamo tutto con un frullatore di immersione e qui possiamo aggiungere quello che vogliamo. Ovviamente un filo d'olio e acciughe o mandorle o pistacchi, comunque un frutto secco che ricordi il pesto alla genovese, ok? Però noi ovviamente non utilizziamo il basilico. A questo punto lo insaporiamo con un po' di sale e un po' di pepe e andiamo a condire la nostra pasta. Dall'altra parte facciamo la polenta, buon Veneto, e sfruttando il vapore della cottura della polenta cuociamo il broccolo vero e proprio. Una volta ammorbidito lo assembliamo con la polenta e lo passiamo al forno a gratinare in modo da ottenere uno sformattino. Benissimo, Stefano, non riusciamo ad andare oltre, credo che però abbiamo dato tutte le informazioni essenziali. Riprendiamo queste ricette, le pubblichiamo sul nostro profilo Facebook, per cui tutti gli ascoltatori che hanno pensato di perdere qualcosa avranno tutte le informazioni. Grazie e buon pranzo naturalmente, Stefano, a presto. Grazie a voi. Grazie a Marco Lombardo, Laura Vanossi, Paolo Corleoni oggi che mi hanno assistito in questa puntata solitaria. Noi con Nicoletta Carbone torniamo naturalmente domani e probabilmente racconteremo anche un po' cosa sta succedendo sui mercati finanziari. Intanto, buona giornata.